Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentrovati alla seconda puntata de Il bene di tutti, parliamone. Sono Andrea Canton. Il nostro programma affronterà i temi di tutti i giorni, come politica, economia, vita sociale, alla luce degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Una delle prime istanze della dottrina sociale della Chiesa è stata la dignità del lavoro e il rispetto delle condizioni dei lavoratori. Una dignità che tutt'oggi non viene rispettata in gran parte del mondo. Pensiamo alla Cina, il motore economico del mondo, dove un operaio non viene pagato più di 100 euro al mese. E pensiamo ad esempio alla Foxconn, la fabbrica dei nostri giocattoli tecnologici come l'iPad, l'iPhone. Secondo il Corriere della Sera del 26 maggio 2010, pensate che per arginare le decine di suicidi che ogni anno avvengono all'interno di questa industria, la Foxconn costringe i neoassunti a firmare un contratto nel quale promettono addirittura di non suicidarsi per non recare danno all'azienda. Ma che ha fatto in tutti questi anni la Chiesa per le condizioni dei lavoratori? Ne parliamo anche questa settimana con Don Marco Cagol, delegato alla pastorale sociale del lavoro della Diocesi di Padova. Ma prima leggiamo un piccolo passo della Rerum Novarum di Leone XIII, la prima enciclica sociale moderna che ha gettato le basi per tutta la storia della dottrina sociale della Chiesa. Dalla Rerum Novarum di Leone XIII. Pertanto, venerabili fratelli, ciò che altre volte facemmo a bene della Chiesa e a comune salvezza con le nostre lettere encicliche sui poteri pubblici, la libertà umana, la Costituzione cristiana degli Stati ed altri simili argomenti che ci parvero opportuni ad abbattere errori funesti, la medesima cosa crediamo di dover fare adesso per gli stessi motivi sulla questione operaia. Trattammo già questa materia, come ce ne venne l'occasione più di una volta, ma la coscienza dell'apostolico nostro ministero ci muove a trattarla ora, di proposito e in pieno, al fine di mettere in rilievo i principi con cui, secondo giustizia ed equità, si deve risolvere la questione. Questione difficile e pericolosa. Difficile perché ardua cosa è segnare i precisi confini nelle relazioni tra i proprietari e i proletari, tra capitale e lavoro. Pericolosa perché uomini turbolenti ed astuti si sforzano ovunque di falsare i giudizi e volgere la questione stessa a perturbamento dei popoli. Grazie Don Marco per essere con noi anche oggi. Ben ritrovati a tutti. Abbiamo letto questo passo, ma che cosa ci dice? Allora, questo passo della Rerum Novarum, diciamo così, ci dà il polso, ci dà anche il motivo fondamentale per cui a un certo momento la dottrina della Chiesa nasce così come la conosciamo. Prima facevi riferimento a questi fenomeni, ecco, che riguardano il mondo del lavoro e ti sei domandato che cosa ha fatto la Chiesa per tutte queste cose qui. Beh, la Chiesa ha sempre guardato al tema del lavoro con grande attenzione e con grande cura. Se noi apriamo il catechismo troviamo tra i grandi peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio quello del frodare la giusta mercede agli operai. Ecco, diciamo che nella Rerum Novarum questa attenzione della Chiesa, dei cristiani alla problematica del lavoro, ecco, trova la sua prima grande esplicita sistematizzazione. Leone XIII con la Rerum Novarum intende proprio affrontare quella che era la grande questione del suo tempo, cioè la questione operaia. Ormai erano presenti delle masse enormi di persone che venivano coinvolte nel lavoro in fabbrica, nel lavoro nelle prime industrie, insomma nella seconda industrializzazione, e le cui condizioni erano veramente misere. Ecco, e la Chiesa, con questo grande atto di amore verso il mondo di cui parlavamo anche nella scorsa puntata, si pone il problema e lo affronta con grande decisione, con grande energia. E potremmo dire che così nasce formalmente quella che oggi noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa. Sebbene i temi sociali siano stati affrontati anche nei secoli precedenti, la dottrina sociale moderna nasce adesso, con Leone XIII. Eppure il termine a chi lo dobbiamo? Beh, il termine lo dobbiamo a Pio XI. È lui che nella seconda grande enciclica sociale che noi conosciamo, la Quadragesimo Anno, introduce questo termine. Peraltro un termine ancora un po' controverso, alcuni qualche volta insomma così lo mettono un po' in discussione, ma diciamo che è un nome proprio, ecco, identifica un corpus ben preciso di documenti. Ecco, da notare che la Quadragesimo Anno, questa enciclica di Pio XI, che data 1931, è stata proprio un'enciclica che ha inteso celebrare e aggiornare, a seconda dei tempi così come erano mutati, la prima grande enciclica. E questo avverrà quasi sempre. Fino alla Centesimus Annus, molte delle encicliche sociali saranno scritte proprio e pubblicate nell'anniversario della Rerum Novarum, a dire proprio che è stata un documento fondamentale, ecco, che ha iniziato. Ecco, la Quadragesimo Anno sono i 40 anni. Ci fermiamo qualche istante e ci diamo appuntamento fra poco. Grazie. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati alla seconda puntata de Il bene di tutti, parliamone. Siamo con Don Marco Cagol e stiamo ripercorrendo la storia della dottrina sociale della Chiesa. Un altro pontefice, Pio XII, più che enciclico a documenti scritti, rivolge la sua attenzione per la dottrina sociale grazie alla Radio Vaticana con i suoi messaggi natalizi. Che ruolo hanno i media cattolici nella promozione della dottrina sociale? Beh, intanto è interessante notare appunto questo passaggio della dottrina sociale della Chiesa da parte di Pio XII. Pio XII è stato un pontefice che è intervenuto in una quantità enorme di materie, proprio perché riteneva che la Chiesa ha il diritto proprio di intervenire e anche il dovere di intervenire su tutte le questioni che riguardano la persona umana. E lo ha fatto attraverso questo mezzo, che era agli albori all'epoca, ritenendo che la diffusione della dottrina sociale, cioè il fatto che il popolo cristiano, la comunità cristiana, ma anche il mondo intero conoscesse che cosa il Vangelo suggeriva in riferimento ai problemi sociali, ecco, fosse particolarmente coerente con il mandato di Gesù agli apostoli di andare e annunziare a tutte le genti il Vangelo. Ecco, credo che in questo senso allora in Pio XII troviamo così come una conferma dell'importanza dei media. E se Gesù è salito sul monte per annunciare le sue parole, oggi salire sul monte significa andare in un posto, in luogo, attraverso mezzi che possano il più possibile diffonderla la parola e quindi anche la dottrina sociale, quelli che sono i valori che vengono del cristianesimo. Certamente i media hanno anche delle ambiguità, possono essere usati male, possono essere anche il mezzo, a volte può anche condizionare il messaggio. Però, ecco, nessun mezzo è cattivo di natura, quindi i mezzi, i media sono qualcosa di buono. Ecco, anche a livello della nostra diocesi, per esempio il settimanale diocesano della nostra diocesi, La difesa del popolo, ha più di 100 anni, quindi vuol dire che già più di 100 anni fa si comprese l'importanza dei media per i temi sociali. Faccio notare il nome del nostro settimanale diocesano, La difesa del popolo. Oggi sembrerebbe un nome, voglio dire, particolarmente rivoluzionario, ecco, però voleva dire però la difesa del popolo da che cosa? Certamente dagli errori della fede, della dottrina, ma se noi andiamo a scorrere molte pagine dei primi decenni della difesa del popolo, troviamo che era una difesa del popolo proprio dalle ingiustizie, da chi voleva prevaricarne i diritti, la giustizia, la pace, l'armonia, certamente anche la fede, ecco, quindi erano anche anni molto violenti, di scontri ideologici, però i temi sociali sono sempre stati molto molto molto presenti e questa tradizione si è prolungata per molti anni. Questa stessa trasmissione è un segno importante, ecco, di come una radio, diciamo così, che è ispirata, cioè, che è, diciamo, espressione anche di una realtà ecclesiale, possa essere un mezzo ottimo per far conoscere la dottrina sociale della Chiesa, che è questa a volte grande sconosciuta anche tra i cristiani. Eppure nei primi decenni la dottrina sociale sembra quasi voler accusare di più i rossi, i socialisti e poi i comunisti, piuttosto che i prevaricatori o gli sfruttatori. Sì, indubbiamente questo può essere vero. Quando Leone XIII scrive la Rerum Novarum, e quindi affronta la questione per aria, certamente lui ha in mente di difendere anche gli operai dagli abusi dei padroni, eccetera, però con un occhio anche molto attento è preoccupato e guarda a quelle che invece erano le teorie e le dottrine socialiste di ispirazione marxista, che di fatto si accreditavano come appunto difensori dei diritti dei più deboli, dei diritti degli operai, e si rende conto e quindi scrive questa enciclica anche per combattere l'errore socialista. Ma qual era la natura dell'errore socialista che nei primi decenni anche preoccupava molto, ecco, i pontefici e comunque la dottrina cattolica? Era l'errore materialista, l'errore ateo. Questa era la vera questione, non era tanto la denuncia delle ingiustizie che facevano, ma era la soluzione che davano, una soluzione di tipo materialistico, ateistico, che quindi riteneva la religione, la fede, come una delle concause dello sfruttamento dei più deboli. Ecco, la Chiesa evidentemente questo non può accettarlo, perché il cristianesimo in realtà è sempre stato visto ed è sempre stato anche nella storia come un fattore di sviluppo, un fattore di promozione, non una causa dello sfruttamento. Ecco, quindi in questo senso lo scontro è molto forte, soprattutto lo è stato anche per tantissimi decenni, perché anche durante la Guerra Fredda una delle preoccupazioni più grandi della dottrina sociale, fino almeno a Pio XII, era proprio quella di arginare il comunismo dilagante. Teniamo conto che poi Giovanni XXIII introdurrà la distinzione tra errore e errante, quindi salverà, diciamo così, le persone, ma non verrà mai meno alla condanna, diciamo così, della dottrina di ispirazione marxista, il socialismo, il comunismo, ecco. Ma la ragione è teologica, religiosa, ecco, non tanto di tipo di analisi che vengono fatte. Il più grande evento del Novecento per la Chiesa Cattolica è stato sicuramente il Concilio Vaticano II. Che spinta ha dato il Concilio ai temi della dottrina sociale? Beh, ha dato una spinta grandissima. Il documento conciliare che più è rilevante per la dottrina sociale della Chiesa è la Gaudium et Spes, questa costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, che vuole disegnare proprio una modalità di presenza della Chiesa. Qua, se mi permetti, farei una piccola così ragionamento forse un po' complicato, ma non troppo. Ecco, forse fino al Vaticano II si aveva l'idea che la Chiesa fosse la società perfetta alla quale tutta la società doveva un po' conformarsi come struttura, in una visione un po' piramidale della società. Mentre nel Vaticano II si è chiaro, è chiaro quella prospettiva che vedevamo nella puntata precedente della lettera di Ogneto, cioè i cristiani sono nel mondo. La Chiesa è nel mondo e condivide con il mondo tutta una serie di problemi, di preoccupazioni. E i cristiani vogliono essere come l'anima, come quel luogo che immette nel mondo la carità di Cristo, l'amore di Cristo. Quindi per la dottrina sociale della Chiesa, per come si concepisce la Chiesa nel mondo, la Gaudium et Spes ha un'importanza fondamentale. Se noi poi la scorriamo, troviamo anche affrontati tanti temi concreti, la famiglia, lo Stato, la pace, eccetera, eccetera. Però quella è una pietra miliare nello sviluppo della dottrina sociale. Proprio la pace. Prima nella dottrina sociale della Chiesa si pensava solo al lavoro, ai mezzi di produzione, e con Giovanni XXIII, Pacem in Terris, la pace entra di diritto nei grandi pilastri della dottrina sociale. Certo, questo intanto dà la prova di come la dottrina sociale della Chiesa si sviluppi anche in base ai problemi della storia. Giovanni XXIII scrive questa enciclica al culmine della guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America e si rende conto che se è perduta la pace è perduto tutto. Quindi la pace non può non essere un impegno straordinario della Chiesa e della sua dottrina sociale per il bene dell'umanità. Tra l'altro la pace è anche dal punto di vista teologico è un concetto, come dire, una realtà profondamente radicata nella scrittura. La pace è il dono messianico, la pace è il dono del risorto. Ecco, la pace ha anche tanti risvolti concreti. Ecco, Giovanni XXIII in questa splendida enciclica li affronta dando anche dei criteri molto importanti. E quello è il primo esempio di enciclica sociale che non celebra l'anniversario della Rerum Novarum, perché è scritta nel 1963, rompendo un po' questo schema delle ricorrenze, ma ecco, segnando anche questa una pietra miliare nella dottrina sociale, soprattutto in termini di universalità, cioè una dottrina sociale che si apre ai problemi del mondo intero e non solo ai problemi dell'Occidente. Ringraziamo Don Marco Cagol, che avremo il piacere di incontrare anche la settimana prossima. Grazie a voi. Per contatti, suggerimenti, critiche potete sempre mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it, mentre per riascoltare tutte le nostre puntate potete collegarvi sul sito della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova o sul sito di Blu Radio Veneto. Grazie ancora e a risentirci. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.